Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È l'inizio del quarto volume di Eclettica di questa settimana sulle frequenze di Rock FM. Frequenze nel senso più allargato possibile, perché parliamo di quelle terrestri, di quelle satellitari, dello streaming internet, ma anche del podcasting che vi permette l'ascolto in differita. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, assieme a Italo Calvino, Renato Pozzetto e anche a tanta buona musica. Dedicherò la prima conferenza all'opposizione leggerezza-peso e sosterrò le ragioni della leggerezza. Questo non vuol dire che io consideri le ragioni del peso meno valide, ma solo che sulla leggerezza penso d'avere più cose da dire. Dopo 40 anni che scrivo fiction, dopo aver esplorato varie strade e compiuto esperimenti diversi, è venuta l'ora che io cerchi una definizione complessiva per il mio lavoro. Questo era l'incipit di Lezioni americane di Italo Calvino. allora mi calcoli l'aliquota annuale di una polizza a vita, un nostro ipotetico cliente. Per esempio, ecco, questo mio collega. Beh, io il signore non assicurerei, ha già un piede nella fossa. Anzi, sono sicuro che non passerà la notte. Ma come? Come si permette? Visto? Inouï, trop beau, groovy, trop frais, cheesy, classieux, stylé, ok, funky, trop drôle, samedi, trop cool, extra sympa, puissant, dément, piscine, villa, champagne, taxi, ify, dolby, botox, glamour, sexy, crazy. T'es trop VIP! T'es trop VIP! Brani estremamente diversi fra di loro ad aprire quest'oggi, e non sto parlando solo della struttura musicale ma anche della storia. Il secondo di questi è appannaggio del bretone Catherine, un brano molto divertente da un album molto divertente che da tempo stiamo ascoltando in Eclettica. Il primo brano invece viene da una nuova esperienza di nome Githead, di base a Londra, però estremamente cosmopolita, e i componenti di questa nuova formazione sono componenti che hanno una grande storia alle spalle, quasi da farci parlare di supergruppo nel caso dei Githead. Per esempio Malka Spiegel era nei Minimal Compact, oppure Colin Newman era nei Wire, o Robin Rimbaud, lo conosciamo, con tutt'altro nome per tutt'altri generi, con lo pseudonimo di Scanner. Come ombra che segue i tuoi passi, come ombra. Ogni parola Il vento, venendo in città da lontano, le porta doni inconsueti di cui si accorgono solo poche anime sensibili, come i raffreddati da fieno che starnutano per pollini di fiori d'altre terre. Un giorno, sulla striscia d'aiuola d'un corso cittadino, capitò chissà d'onde una ventata di spore e ci germinarono dei funghi. Nessuno se ne accorse tranne il manovale Marcovaldo, che prendeva proprio lì ogni mattina il tram. Aveva questo Marcovaldo un occhio poco adatto alla vita di città. Cartelli, semafori, vetrine, insegne luminose, manifesti. Per studiati che fossero a colpire l'attenzione, mai fermavano il suo sguardo che pareva scorrere sulle sabbie del deserto. Questo era l'incipit di Marcovaldo, di Italo Calvino. È arrivato a casa mia. Ring. Cos'è? Il campanello di casa sua. Ma... ah, ho capito, lei è l'altro tipo, quello che fa Dlin Zong. Ma quello no. Che faccia Dlin Zong. Io ma faccio non Dlin Zong. C'entra il campanello, vado avanti, avanti. Oh. E questo cos'è? È la porta di casa sua, cigola molto, bisogna metterci un po' d'olio. Oh, che meraviglia! Quadri d'autore, mobili antichi, argenteria. È tutta roba sua, l'ha ereditato, complimenti. Certo che se qui viene un ladro si becca tutto, ma lei se ne frega perché ha già messo una firmetta qui e l'assicurazione... Io ho un perfetto allarme elettronico a prova di ladro. Nessuno può entrare in casa mia. C'è molta Danimarca in questo periodo, in Eclettica. Infatti in settimana avete sentito parlare degli Efterklang a proposito del loro nuovo EP in attesa di un album di lunga durata. E c'è molta Danimarca in quanto abbiamo appena ascoltato Trent Møller, ma non era la prima volta che succedeva con questo pezzo in cui alla voce gli dà una mano Anne Trolle. Trent Møller, più conosciuto come remixatore di canzoni di altri, tipo i Knife, Heroics o poi Pet Shop Boys, però anche con una creatività tutta sua, una originalità tutta sua. E dopo la Danimarca è l'ora dell'Inghilterra. I found something crying, it was my soul. I fed it milk so it wouldn't grow old. We crossed the borderline at dawn and woke up. Field of corn. The my light. It had resigned itself to we were dusting backwards, backward on the ground.